Ogni sera mi addormento con il cuore ben contento di ascoltare l'indomani, il Meazza e la Rosciani. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Ma che poesia stamattina, ne parlavamo proprio a microfoni spenti fino a un attimo fa. Ma buongiorno Deborah. Ciao. Buongiorno, come mai abbiamo questo ingresso così vintage con Cat Stevens che ci miagola in sottofondo? Perché mi è piaciuta Father molto. Father and son, padre e figlio. In realtà invece quella che vogliamo raccontare è la storia di una persona che eredi non ne aveva e quindi ha deciso di lasciare la sua azienda ai dipendenti. Pensa che volo pindarico che abbiamo fatto. Quindi, però mi piaceva raccontare questa storia raccontata addirittura dalle pagine del Sole 24 Ore quest'oggi. Addirittura non lo capisco, cosa c'entra? Raccontata anche, anzi, in esclusiva sì. Dal Sole 24 esatto. Ore. Curiosamente oggi come prima notizia non ne diamo una tirata fuori da Norme e Tributi, ma dalle pagine di Economia e Imprese. Che comunque Norme e Tributi, pagine che tu devi sempre leggere religiosamente, così come tutti gli ascoltatori. Non ho trovato niente di acchiappabile per due di denari. No, no, ma guarda che invece secondo me a guardar bene qualcosa c'è, ad esempio ricordati che c'è Telefisco, 30 gennaio. Ti vedo che sei già tutto fibrillante per il grande appuntamento che ti vedrà grande protagonista, ma raccontiamo la storia di questa Simmi di Romano di Lombardia, una tipica realtà familiare italiana, un'azienda nel settore dell'abbigliamento appunto di questa località in provincia di Bergamo, un gruppo che è stato fondato nel 1970 dal signor Giorgio Bona, dal padre di Giorgio Bona, sì. Scusami, e praticamente questo signore ad un certo punto, arrivato alla età di 70 anni, si è reso conto, anche se in realtà questa transizione ha raccontato di averla pensata e iniziata già qualche anno fa, si è reso conto di non avere eredi, però per così garantire la continuità aziendale di un'azienda che va piuttosto bene, ha deciso di passare la mano a 6 persone, fra manager e tecnici, il 49% appunto dell'azienda la donata in questa modalità. Un 49 che poi diventerà la totalità dell'azienda, sì. Come egli stesso, cioè il signor Bona, ha fatto sapere, il signor Giorgio Bona ha fatto sapere. E questo era il motivo per cui abbiamo scelto, per cui sì. Marco Lombardo in regia, come sempre all'assistenza e alla badanza del sottoscritto, ha scelto Cat Stevens. Ma di che parliamo? Oggi è giovedì gnocchi insieme ad Investire Informati. Abbiamo tanti argomenti di cui parlare perché in questo inizio d'anno non ci sono mancate le notizie da commentare, notizie che hanno animato le sedute sui mercati finanziari e forse hanno suscitato anche molte curiosità fra gli ascoltatori e molti interrogativi. Che faccio? Che non faccio? Facciamo un punto della situazione, quest'anno investo, vado fuori dai mercati, cerco delle opportunità o mi tengo lontani dai rischi, mi tengo lontano dal rischio? Oggi parleremo appunto con due ospiti di tutto questo perché è la nostra tradizionale puntata della settimana in cui fare il punto sui nostri investimenti e i nostri risparmi. Peraltro siamo reduci, lo dobbiamo ricordare ancora una volta dal 2019 decisamente brillante, e allora andate a fare un po' il ripasso anche delle migliori borse dell'anno scorso, perché mi sa che qualche domanda su questo uscirà fuori nel corso dei due di certo, denari. Perché il giovedì c'è il domandone. Beh, come da tradizione c'è il domandone. E che quindi fa pure vi ho già instradati, non voglio trovarvi impreparati a metà trasmissione. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, oppure 349-238-6666 se volete mandarci un sms o un messaggio WhatsApp anche vocale. Naturalmente, cara Deborah, possiamo già introdurre i nostri ospiti di valore mondiale che abbiamo portato qui, perché di sotto non si va mai. Chi ci segue sul Facebook, sì. O anche sugli altri canali, non so, sullo YouTube, sull'Instagram, potrebbe avere già avuto occasione di vederli grazie agli ottimi uffici di Dina Cicciarella, che è la collega che si occupa di queste emissioni sui social. Bene. E allora diamo il benvenuto in rigoroso ordine alfabetico per cognome, sì. A Paolo Proli, che è responsabile della distribuzione retail di Amundi SGR. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. E poi un ritorno, quello di Enrico Vaccari, responsabile della clientela istituzionale di Consulti Invest. Ben ritrovate, grazie. Buongiorno a voi. E buon anno ad entrambi, naturalmente. Io fino a fine gennaio auguro buon anno a tutti, penso che bene. Tu l'abbia capito. Allora, domandate, 800240024 o 349-238-6666. Prima di tutto ciò, naturalmente, il giornale radio del risparmio. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Secondo me è impazzito. Da quando è ritornata a lavorare gli abbiamo dato un po' troppe ferie, io ritengo. Che tutta questa roba giovane, io non mi ci ritrovo dentro. Allora, c'è tutto un motivo per cui c'è questa selezione audio che introduce la notizia che dobbiamo dare ora. Tutti i miei 50 quali sento tutti sulle mie spalle. No, allora, tu sai cos'è TikTok? L'ho saputo in questa trasmissione da poche settimane, perché ancora tu sai che non sono neanche su Twitter, quindi proprio del mesozoico addirittura, figuriamoci se sono su TikTok. Hai degli ampi margini di miglioramento, dai, guarda. Sì, guarda, infatti allora, mio TikTok nipote mi bacchetta tutti i giorni. È un nuovo social, ed è un social che va forte, permette di generare soprattutto video, quello è lo spirito di TikTok. È un social che comincia a suscitare tanto interesse, anche perché è molto gradito ai giovani e giovanissimi, è molto gradito anche ai politici che hanno capito qual è la sua forza di raggiungere i potenziali nuovi elettori o primi elettori, cioè chi arriva alle prime elezioni. Eppure agli hacker piace parecchio, da quello che capisco. Ecco, allora, che è successo? Che si è diffusa la notizia, non ho detto la cosa più importante, è un social cinese. Questo ha generato anche tutta una serie di perplessità sulla sicurezza poi dei dati che si vanno a dare a questo social, perché, come sai, la Cina non è proprio il paese più trasparente della terra. Allora, si è diffusa la notizia di una falla che metterebbe a rischio la sicurezza dei dati personali e la privacy del video. Allora, ci sarebbe la possibilità per gli hacker di caricare video non autorizzati, di cancellarne degli altri, cambiare lo status di privacy del video di un utente e così via. Il tutto ha suscitato la preoccupazione del nostro amico, che è amico anche dei nostri ascoltatori, Massimiliano Dona, dell'Unione Nazionale dei Consumatori, che ha detto: attenzione, perché qui già una falla in una chat è un problema, è un fatto grave per un utente, ma nel caso di TikTok, sapendo che è utilizzato soprattutto dai minorenni, è una cosa gravissima. Certo. Quindi Dona sollecita il garante della privacy a un intervento. Ripeto, è un social cinese e quindi anche problemi di trasparenza assumono delle connotazioni, delle sfumature così più preoccupanti. Senti, mi viene non creiamo qualche incidente diplomatico, per cortesia, quindi fai attenzione a quello che dici. Non ho detto niente di offensivo, ecco, per il grande paese della Cina. A proposito di incidenti diplomatici, andiamo a dare qualche altra notizia sulle vicende della Popolare di Bari. A proposito di incidenti, verrebbe da dire. Appunto, sì. Esatto. Allora, come vi ricorderete, ieri vi abbiamo raccontato quello che è successo il giorno prima, perché c'è stata questo raduno, maxi raduno, chiamiamolo così, di cui avrebbero fatto volentieri a meno alla Fiera del Levante di Bari tutti gli azionisti e gli obbligazionisti che temono di non veder rientrare i loro investimenti. Ed effettivamente soprattutto gli azionisti hanno ben ragione di avere questo timore, perché ci sono delle dichiarazioni che sono state rese questa mattina dal presidente della Consob Paolo Savona in un'audizione alla Commissione Finanze della Camera sul decreto legge per il sostegno al sistema creditizio del Sud, che come è noto sarebbe in realtà una misura di salvataggio della Popolare di Bari. La banalizzo molto la questione, ma per chi l'ha seguita sa bene che le cose stanno in questa maniera. Cosa ha detto Savona stamattina? Che il patrimonio netto della Popolare di Bari, che al 30 giugno scorso era pari a 442 milioni di euro, si deve presumere ora che a seguito delle perdite sia andato perso. Questo significa, cioè, non c'è più. Che non c'è più, e quindi non ci sono più i soldi dei 70.000 piccoli azionisti di questa banca, mentre i bond subordinati, le obbligazioni subordinate in circolazione sono ancora pari a 291 milioni di euro. Ce ne sono altre pregresse che invece sono già state rimborsate. Savona dunque ha detto: rimane un passivo della banca di 700 milioni di euro da affrontare, e ha precisato che la Consob ha insistito a fine anno per la diffusione di dati di bilancio aggiornati, ma che tale informazione non è stata resa pubblica per ragioni di stabilità, per ragioni appunto di stabilità finanziaria, evidentemente attinente al sistema bancario. Questo è quanto. Noi ci torneremo naturalmente su questa vicenda, perché abbiamo ricordato ieri come in particolar modo questo sindacato che segue le vittime di questo nuovo potenziale crack, che speriamo non diventi tale, vogliano che in qualche maniera sia data loro la possibilità di ottenere rimborsi tramite il fondo di indennizzo risparmiatori, che già sta risarcendo gradualmente le vittime delle popolari venete, delle banche venete appunto, delle altre quattro in precedenza. Però la capienza è quella che è 1,5 miliardi, quindi bisognerebbe... Esatto, tra l'altro in questo momento le norme non lo consentirebbero, perché quel fondo è nato con una precisa destinazione e quindi bisognerebbe intervenire con una modifica normativa, il che allunga ulteriormente i tempi. Vuoi sapere una cosa che ha detto la Cassazione, abbastanza seccante, che si lega però a un dillo a due di denari? Tu sai che tra una Cassazione e un Consiglio di Stato ne abbiamo una al giorno, dimmi qual è la novità. Allora, con l'ordinanza 31.426 del 2 dicembre, sì, la Cassazione è tornata siamo in ritardo di un mese su questa, generalmente siamo più tempestivi. No, ma perché è stata diffusa poi ieri con dall'agenzia delle entrate. Allora è tornata a precisare una cosa che ahimè c'era già capitato di precisare. Se voi andate sul sito del Sole 24 Ore, nella sezione Esperto Risponde, www.espertorisponde.sole24ore.com, lì trovate questa vicenda. Qua io do in affitto una casa, l'inquilino non mi paga, è possibile che io debba pagarci l'IRPEF sopra? Ebbene, la risposta è sì, perché il fisco dice perché di sì, e così ha detto anche la Cassazione, perché di sì, aspetti caro locatore che il tuo locatario o sloggia o riprende a pagare e ti paga anche gli arretrati. Questo più o meno l'approccio, diciamo, morbido, sì, certo, che viene anche adottato dal fisco, dall'Agenzia delle Entrate. È così, ma non è ancora niente, perché la cosa migliore te la faccio sentire adesso lanciando Dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Buongiorno ragazzi, qualcuno mi spiega perché l'assegno di mantenimento all'ex coniuge ed è detraibile, le spese veterinarie ancora di più, l'assegno ai figli no. Questo è un comma profondo di cui scriverà diffusamente Mauro Meazza prossimamente. Allora, intanto anticipiamo agli ascoltatori che ne parleremo domani con il nostro amico l'avvocato Giorgio Vaccaro, esperto di divorzi, sì, dobbiamo dirlo, esatto, e quindi torneremo su tutta una serie di vicende che hanno arricchito un po' la cronaca fiscale in questi giorni, non ultima anche la decisione del Consiglio di Stato di, non è una, due una decisioni vicenda del Consiglio fiscale di Stato, esatto, che hanno ribadito la trasparenza dovuta nei confronti dell'ex coniuge. Esatto, quindi vi separate, se mettete, esatto, i conti in chiaro, esatto, così hanno ribadito dal Consiglio di Stato. Quindi anche domani è questo, anche domani di questo tema parleremo, appunto questa faccenda dell'assegno di mantenimento, che per la verità non ha nessuna risposta, perché così no, ne dobbiamo prendere atto e basta. Cioè, sì, è così, abbiamo cercato così della razza. Se vi pare, e se non vi pare è così lo stesso, verrebbe da dire. Ma allora che facciamo? Andiamo direttamente a farci spiegare come dobbiamo investire, non investire, che dobbiamo fare? Qui c'è gente che si alza la mattina è tutta spettinata, mi immagino, non lo so, perché sì, esatto, si è spettinato pure lui e lancia dei tweet e poi dei missili, insomma. Esatto, la infatti questione, no, adesso non vorrei scherzare su cose molto serie, ma effettivamente anche dal nostro punto di vista così un po' egoistico di risparmiatori c'è da farsi delle domande. Ma che succede? Allora pensavamo di essere tranquilli, già stavamo un po' in preoccupazione con la Brexit che qui ci guarda dalla fine di gennaio, giorno dopo Telefisco tra l'altro, No, ma addirittura guarda una coincidenza, Meghan e Harry che divorziano dalla regina, la Brexit che deve finire di divorziare, Telefisco, quante cose a raccontare stamattina. Incorniciamo tutto con la sigla come si deve. Investire informati. Allora, beh, chi cercava informazioni sulle motivazioni per cui i mercati si sono, almeno con un po' di calma, ma lo hanno fatto anche abbastanza rapidamente, disinteressati alle vicende tra Stati Uniti ed Iran, hanno fatto fatica a trovare delle spiegazioni. Noi stamattina appunto proviamo a darne con i nostri ospiti. Allora io comincerei con Paolo Proli, responsabile distribuzione retail di Amundi SGR, se non altro perché è la prima volta che viene a trovarci. Vaccari è già un amico di due di denari, quindi sarà contento appunto di dare la precedenza al suo collega. Allora, voi peraltro, come hanno fatto molte case di investimento, lo fanno ricorrentemente in questo questo periodo si scrivono tutti i rapporti che potrebbero, che danno la cosiddetta preview sui mercati dei prossimi mesi, quindi lanciano un po' delle, divulgano delle previsioni su quello che potrebbe succedere. Il vostro si chiama Scenari Divergenti, ma questo cigno nero di inizio anno ve lo immaginavate? Ma magari non esattamente questo, no, Deborah? Però diciamo che in questo 2020 si è trasformato in 2020 di guerra, nel senso che arrivavamo da quella della guerra commerciale come tematica, no, di chiusura del 2019, sulla quale comunque iniziamo già da oggi ad avere un po' di maggior, diciamo, trasparenza, quindi sappiamo che verrà firmato il primo trattato a breve. E poi faranno prossima. Subito il video su TikTok per comunicarlo, ovviamente. O anche Jib Jab, che so è stato utilizzato molto durante le vacanze di Natale per fare gli auguri. Anche questo è sicuramente un sito molto interessante. È una app da millennials, ecco, che indubbiamente è sempre più prolifico. Però tornando proprio a questo 2020, diciamo che l'escalation militare probabilmente non era diciamo aspettata. Ovviamente anche una grande casa di gestione come la nostra, lo scenario dell'escalation, diciamo, delle tensioni geopolitiche ovviamente è sempre un po' latente, no? C'è sempre uno di quei rischi che consideriamo nel lungo termine possano avere dei momenti di happening, o cosiddetto di ritornare effettivamente a proporsi, a fare capolino. Era vero che avevamo già avuto le avvisaglie qualche mese prima, sì, no? A settembre, ma non ci saremmo aspettati questo tipo di escalation. C'è stata, per fortuna dico io, al momento, insomma, mi sembra che questa escalation però si stia fermando laddove i mercati la stanno addirittura già scontando. Sembra che questa volatilità poi non abbia colpito in maniera significativa, no? Anche le performance proprio dell'inizio dell'anno in termini di valutazione dei mercati. Ci sono stati un po' di aggiustamenti che secondo noi, adesso non è che voglio fare l'analista, ma magari qualcuno ha detto, dopo tutto quello che è successo nel 2019, prendiamo questa scusa per passare all'incasso e poi ripartiamo. Sai, dal nostro punto di vista, come osservazione sui flussi finanziari, forse è stato fatto il cosiddetto in inglese profit taking, cioè riportare a casa un po' dei guadagni del 2019, che è stato un anno strepitoso in termini di performance. Tutte le asset class, a parte l'asset class liquida, cioè il monetario, che è stata l'unica negativa con meno 0,3 nel 2019, sono tutte performance significative, molto importanti, cosiddette double digit, no? con doppia oltre cifra, 10%, quindi. Doppia cifra. È ovvio che anche a livello umorale sia stato importante magari portare a casa un po' di beneficio delle performance del 2019, ma non c'erano alternative nel mondo dell'investimento, nel senso che non avendo più una curva di tasso positiva, non abbiamo oggi anche, voglio dire, il titolo governativo italiano di breve termine, comunque un rendimento negativo, per cui costringe fondamentalmente l'investitore a cercare di pianificare una ricerca di rendimento fatta con strumenti di investimento, e da questo punto di vista lo strumento di investimento va a finanziare i mercati, va a finanziare aziende, va a finanziare il consumo. Questo consumo che noi stiamo dicendo però in un'ottica 2020 sta continuando, non vediamo una recessione, non vediamo quindi una cosiddetta discesa di quello che è il potenziale della crescita economica, vediamo addirittura una normalizzazione soprattutto sulla parte magari anche americana, che avrà anche l'anno delle elezioni, per cui sicuramente quelli che sono i rischi sono dovuti soprattutto alle cose che ancora non sappiamo. Ci potrebbe essere ad esempio un'interpretazione negativa dell'alternativa democratica rispetto a Trump. Trump oggi ha spinto i mercati, no? In questi anni lo abbiamo visto indubbiamente, è stato percepito molto positivamente dagli analisti, magari un cambio, un'alternanza vista troppo magari di sinistra, un po' meno, diciamo, attenta alle dinamiche della crescita e un pochino di più alla parte sociale, potrebbe creare dei primi disinvestimenti che oggi non possiamo però prevedere in maniera certa all'interno di un portafoglio di investimento. Cosa voglio dire con tutto questo? Che è vero che ci sono incertezze, è anche verissimo che abbiamo avuto un cosiddetto ciclo economico espansivo lunghissimo, forse il più lungo della nostra storia, almeno, sì. Ma quello che stiamo comunicando ai nostri clienti, ai nostri intermediari, alle banche che lavorano con noi, è che non essendoci alternative di rendimento sulla curva obbligazionaria di base, quella governativa, dobbiamo continuare a fare investimento selezionando magari in maniera più puntigliosa quali sono le opportunità che il 2020 ci potrà dare. Non saranno le stesse in termini di performance del 2019, guardate, certo, che il rendimento obbligazionario del 2019 intorno al 10%, se guardiamo proprio quella componente dove c'è anche la parte del credito, no? Quindi delle emissioni anche delle aziende, non solo da parte degli stati e degli stati emergenti, un rendimento intorno al 10% che è derivato del 3-4% dalla parte del tasso, ma il resto da proprio la chiusura dei cosiddetti spread, cioè è diminuito il rischio percepito al mercato perché le banche centrali hanno fatto easing quantitativo, hanno dato facilitizzazione, hanno rimesso liquidità, hanno iniziato a comprare loro in nome per conto dei clienti anche le emissioni cosiddette corporate, e questa performance ovviamente è molto importante, ma vuol dire anche che in previsione sul 2020 non avremo lo stesso spazio di crescita. Certo, fermo lì Proli, sulle opportunità andiamo nella seconda parte del programma. Sì, anche perché colgo questa disamina di Proli, ma giro, come dire, la palla a Vaccari, perché è tutto vero, ma ad esempio qui in Italia abbiamo tantissima gente che non si fida e tiene i soldi sul conto corrente. Sappiamo che c'è questa liquidità importante sui conti correnti, e naturalmente poiché siamo portati a interpretare questo comportamento come un stiamo prudenti perché non sappiamo poi che cosa succede, non sappiamo come andrà a finire, basta anche una minima così incertezza, non parliamo poi di missili, droni, interventi militari in altri stati, basta anche una minima incertezza a scoraggiare l'investitore, cioè il risparmiatore, a diventare investitore. Vaccari, come la vede lei? Sì, in effetti ci sono, condivido lo scenario del collega in pieno, però ci sono chiaramente anche delle incertezze. Soprattutto i mercati si sono spaventati per il rialzo del prezzo del petrolio, perché il rialzo del prezzo del petrolio, se prolungato, ha portato quasi sempre a una recessione, soprattutto perché il petrolio è la componente più forte dell'inflazione, visto che i consumi generalmente sono molto bassi. Per cui il rialzo del prezzo del petrolio potrebbe essere uno di quei cigni neri che porta con sé parecchie notizie negative. Quindi di fatto della crisi che c'è stata in Medio Oriente, l'effetto che ha spaventato di più mercati è la conseguenza sul rialzo del prezzo del petrolio. Tornando invece al risparmiatore, è una questione di informazione. Molto spesso i risparmiatori sono trascurati, molto spesso si parla dei mercati quando i mercati raggiungono doppia cifra di rendimento, e quindi quando magari sono alla fine di un ciclo espansivo, perché non dimentichiamoci che i mercati per salire prendono le scale, ma per scendere prendono l'ascensore. Questa è una massima che funziona sempre. Fantastico, me la segno. Sì. Perché e quindi bisogna sempre stare pronti, e soprattutto il piccolo risparmiatore, che è quello più esposto alle bufere sui mercati finanziari, deve essere correttamente informato e determinare fin da subito il suo grado di rischio e quanto vuole essere esposto al rischio. È chiaro che però i rendimenti obbligazionari ormai hanno raggiunto dei livelli molto bassi, non garantiscono sicurezza e protezione, per cui bisogna guardare anche ai mercati azionari, magari guardare a quei mercati azionari dei paesi che sono rimasti indietro, delle aree che sono rimaste indietro, mi riferisco all'Europa, che da sempre è considerato un investimento value, quindi con forti valori fondamentali, e i mercati emergenti un po' trascurati da questa impasse che è continuata nel 2019 per la famosa guerra commerciale. Certo, poi bisognerà vedere anche quali mercati emergenti. Sicuramente la Cina non è più considerato uno di questi, ma il mercato cinese va tenuto sempre sotto osservazione, certamente perché deve completare l'accordo con gli Stati Uniti, e la settimana prossima siamo ad una fase importante, ma in ogni caso è una grande economia che ha ripreso un pochino a rallentare, quindi anche lì bisognerà capire se per effetto della trattativa commerciale con gli Stati Uniti o perché c'è proprio il famoso cambio di modello economico a cui questa economia è sottoposta appunto da anni. Intanto, caro Mauro, stavo riguardandomi un po' le cifre dell'anno scorso, ma tu lo sai qual è stata la miglior piazza mondiale? Milano? No. Come si è comportata molto bene, perché il FTSE MIB ha fatto più 25,43%. No, una un po' più piccolina, che è stata in grandissima crisi, soprattutto per il debito pubblico, qualche anno fa, ne parlavamo continuamente. Sì. Piccola borsa, 20 titoli. Comincia per A. Sì, storicamente parlando, insomma, racconta una tradizione classica, Atene. Importantissima. Ma guarda, ma quanto mi sei bravo. Sono preparatissimo. Allora guarda, poi voglio c'è anche sapere la Russia, che è andata molto bene. Voglio sapere tutto sui mercati finanziari in questo momento, perché sì. Cara Deborah, sono le 11:30. Aspetta che mi giro, va. Eh sì, e allora le borse. Viva la fatturazione elettronica. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. Questa canzone è dedicata a tutti i bambini cui i genitori hanno una Jeep e che vengono portati a scuola anche quando fuori c'è una bufera di neve. Siamo con voi, ragazzi. Non tutti i genitori guidano una Jeep. Solo a gennaio, zero anticipo e zero interessi. Jeep Renegade, da 249 euro al mese. Jeep Compass, da 299 euro al mese. TAN 0 TAIG 1,31. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info e condizioni su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica. Jeep, there's only one. Già qui? Ma come hai fatto? Per me ha corso Credit Reform. Non devi più correre dietro il tuo denaro. Ci pensa Credit Reform. È il più veloce, sempre. Ah, ma quanto ha vinto? Ha vinto la fiducia di 170.000 clienti, perché il gruppo Credit Reform è la prima società di recupero crediti del mondo con 550 milioni di euro di fatturato. Un consiglio, verifica la solvibilità del debitore prima di intentare l'azione legale. 800-425-325 o creditreform.it. Posso aiutarla? Cercavo lo scaffale del biologico. Ma noi di Conad abbiamo molto di più. Abbiamo scelte di benessere. Una scelta di prodotti per star bene con se stessi senza rinunciare al gusto. Come le bevande vegetali Verso Natura Bio Conad da un litro con sconto del 25% su tutti i gusti fino all'11 gennaio. Conad. Persone oltre le cose. Due di denari. E non ha lunedì neri, non conosce default. Senza banche centrali, senza WTO. No, no, con le banche centrali, perché qua hanno rappresentato il grande ammortizzatore sociale di ogni momento difficile. Senti, momento di divertimento, io voglio parlare con Marta Cagnola. Perché? Perché voglio che questi signori qua che hanno inciso questo brano vengano qui ospiti a Due di Denari. Ma li cerchiamo anche noi, certamente, ci facciamo aiutare da Marta sicuramente. Visto che lei poi adesso sarà a Sanremo, sono questi, si chiamano i cani, se capisco bene dall'appunto che mi ha lasciato qui Marco Lombardo. Non è proprio un nome che per uno che canta porti bene, però esatto, evidentemente. Perché si dice no, canta come un cane qualche volta, quando insomma, non gli si deve fare proprio un complimento. E invece abbiamo banche centrali, dicevi. Sì, no, cosa vuoi sono sapere? State le chiedimi. Vuoi sapere tu allora che cosa farà quest'anno la signora Lagarde? Sì, io non so un accidente, però siccome abbiamo qua due esperti che ci capiscono, no, chiediamolo a loro. Allora, Paolo Proli, Amundi SGR. Le banche centrali, dicevamo, hanno arginato momenti difficilissimi dell'ultimo decennio e hanno consentito, anche loro effettivamente hanno dato un grande contributo importante al mantenimento di questo trend favorevole, in particolar modo sul mercato azionario. Tutta la liquidità che hanno generato, hanno detto in molti, beh, siccome non si sa dove metterla, teniamocela e mettiamola, appunto, riversiamola sul mercato attraverso l'acquisto di quello azionario in particolar modo. E anche in questi giorni, in realtà, Moria Longo ne ha scritto tanto sul Sole 24 Ore, Mauro, per chi si è preoccupato molto di questo rivolo di crisi, di questo momento di crisi determinato da Stati Uniti ed Iran. Moria scriveva, interpellando molti vostri colleghi, che effettivamente si sono detti rassicurati anche di un'eventuale fase particolarmente negativa di questa crisi, perché tanto le banche centrali intervengono sempre, ma non potranno farlo per l'eternità, dico io. Quindi insomma, che scenario si apre per quello che riguarda l'attivismo di Federal Reserve e Banca Centrale Europea in questo 2020? Beh, comunque non lo faranno per sempre, però sono molto attente, no? E penso che la loro intenzione sia soprattutto quella di assecondare la crescita dei mercati e non certo di metterli in crisi con una dialettica magari sbagliata o contraria. Abbiamo visto che in effetti l'anno scorso poi il mercato a un certo punto nel secondo semestre è volato, no? Su un cambio di tendenza della Federal Reserve, per cui quando Powell ha iniziato a annunciare un cambio di tendenza della politica monetaria e i tagli dei tassi, effettivamente poi le borse hanno ripreso a marciare a piè levato. E devo dire che quest'anno quello che ci possiamo anche aspettare che la Lagarde continui, no, il lavoro di Draghi, magari però deve far partecipare un pochino di più anche i falchi tedeschi, che ovviamente per anni, no, hanno poco digerito la politica di Draghi, secondo loro troppo a espansiva, favore della periferia, sì, ed espansiva. Però lei ha fatto già quello che doveva fare, per cui ha già garantito il fatto che il tasso di deposito a meno 0,50 permetta di avere un accesso ovviamente al mercato importante. Ma penso che l'informazione, che magari un pochino più tecnica, che gli ascoltatori sanno meno, la cosa importante che lei ha fatto è stato il tiering, cioè il fatto di permettere alle banche di non pagare questo meno 0,50 per 6 volte il deposito obbligatorio che loro hanno da avere presso la banca centrale. Cosa vuol dire? Che le ha aiutate a aumentare la loro marginalità e i loro ricavi, e fondamentalmente gli ha tolto quell'aggravio di costo che difatti le banche, soprattutto periferiche, proprio quelle italiane, portoghesi, spagnole, hanno subito aumentato ad esempio il loro deposito presso la banca centrale. Questo cos'è? È una facilitazione. Questo permette loro di continuare una politica di crescita anche in fasi dove ovviamente appunto non è così semplice. Il settore finanziario europeo è stato molto penalizzato in questi anni e probabilmente, in un'ottica guardando forward looking, cioè guardando in avanti, potrebbe anche essere un tema di investimento per appunto proprio per la nostra clientela e per gli investitori. Pensare che oggi il motore principale della crescita siano ancora il mercato, diciamo, americano, gli Stati Uniti, probabilmente non è il nostro scenario centrale. Noi non prevediamo una recessione, come abbiamo detto prima, ma probabilmente inizieremo ad avere una rotazione delle scelte, degli investimenti, che favoriranno anche e soprattutto l'Europa, che in termini di valutazioni e di technicals, così dice, di possibilità delle politiche monetarie di intervenire e di facilitare, ci sembra abbia ancora molte armi da poter giocare. Citavi prima la Cina, abbiamo proprio visto gli interventi della banca centrale proprio sui depositi, no? Quindi da un punto di vista di politica monetaria e fiscale, anche la Cina è vero che sta crescendo, e Amundi dice meno del 6%, quindi Amundi ha pronosticato per il 2020 un 5.8, il consenso generale vedo degli operatori di mercato è intorno al 6, ma noi stiamo dicendo che comunque è un paese che comunque è un traino alla crescita globale e probabilmente oggi è la prima economia globale, tra le altre cose è anche quell'economia che può pianificare a lungo termine, non ha un'alternanza. Gli Stati Uniti quest'anno dovranno giocarsi l'alternanza, no? A novembre ci saranno le elezioni, l'Europa oggi è un pochino in difficoltà proprio perché da un punto di vista anche politico non abbiamo una coesione di intenti, l'Italia forse è proprio il fanalino di coda, se guardiamo lo spread attuale proprio del nostro Stato è 100 punti base superiore a Spagna e Portogallo rispetto al Bund tedesco, solo esclusivamente per una tensione politica di un governo non considerato sufficientemente forte e credibile a medio termine. Questo è un po' un peccato perché il rating di Italia, Spagna e Portogallo è uguale, per cui non ci dovrebbero essere questi 100 basis point di spread. Vuol dire ovviamente minor fiducia da un punto di vista di investitori internazionali nel nostro paese. Ma sul nostro paese io poi ci vorrei anche tornare. Ci torniamo fra un attimo. Beh, anche perché poi a proposito di nostro paese d'Europa, noi ricordiamo sempre che questa manovra finanziaria che abbiamo così faticosamente varato alla fine dell'anno scorso è ancora sub iudice, cioè la Commissione ci dirà in primavera se poi giudica realmente sufficienti le misure adottate col decreto fiscale e con la legge di bilancio. Non abbiamo più così, come dire, litigato come nell'anno precedente, ma non ci hanno neanche così ben perdonato o promosso come potevamo aspettarci. Quindi questa è un po', diciamo, l'ambivalenza in cui ci muoviamo rispetto ad esempio alle istituzioni comunitarie. Volevo chiedere solo una cosa però, Prodi, questa vicenda che lei ci ha spiegato di atteggiamento di Lagarde nei confronti delle banche dovrebbe muovere le banche quindi ad essere anche più generose nella concessione di prestiti alle imprese e alle famiglie? Tendenzialmente sì, dobbiamo però ricordarci che sono molto stringenti oggi in Europa i vincoli anche proprio di solvency, per cui vengono richiesti dei parametri molto stringenti proprio perché il mondo finanziario è il volano poi, no, nell'attività macroeconomica della nostra regione, e da questo punto di vista per cui le banche stanno cercando di aumentare, di aprire il cordone, ma lo stanno facendo in maniera ovviamente centellinata, non stanno tra virgolette finanziando qualsiasi progetto, stanno cercando quelli forse più strategici di medio lungo termine in modo tale da poter assecondare i cambiamenti che stiamo vivendo in atto. Io ne cito uno, ma dal mio punto di vista in Europa il più importante di tutti è proprio la transizione energetica, no? Siamo passati dal secolo del carbone nel XIX secolo, quello del petrolio era lo scorso. Io vedo di fronte a noi, soprattutto in Europa, dove la politica anche della comunità europea è di accelerare, no, la zero emission della CO2, sì, di portarci al green come fonte energetica principale. Sto vedendo moltissime aziende in Italia, in Francia, in Germania già modificare il loro modello di business per assecondare la transizione energetica, eolico, fotovoltaico stanno ovviamente aumentando la loro incidenza, e mi aspetto che con tutto il cambiamento dovuto anche alla spinta dei millennials e della generazione Z che spingono per un nuovo consumo più attento, più sostenibile, ci sia una forte chiamata alla modifica, certo, di quella che è la produzione e poi anche la distribuzione. Enrico Vaccari, tutto questo però richiede anche avere un po' di pazienza con il proprio investimento. Sappiamo che tipicamente l'investitore italiano non ne ha moltissima, fa molta fatica a ragionare in un'ottica di lungo termine, di pianificazione finanziaria, quindi ammettendo che quest'anno, all'inizio di quest'anno, ci si sia un po' innervositi per quello che abbiamo visto, e subito il risparmiatore italiano vuole modificare la propria strategia di investimento. Voi che cosa avete notato? Insomma, questo cambio d'umore lo avete riscontrato fra la vostra clientela, anche se poi non andate a contatto con il risparmiatore finale, però qualche, come dire, modalità di raccogliere il mood probabilmente l'avete. Qual è il sentimento che avete intercettato e di conseguenza come impostare una strategia di investimento adatta a questo anno che sarà molto suscettibile, forse più volatile secondo quello che dicono molti operatori, e quindi dovremmo imparare ad avere i nervi un pochino saldi? Sì, sicuramente i rischi per il 2020 vengono dal fatto anche delle performance straordinarie che sono state raggiunte nel 2019, quindi questa coda positiva chiaramente porta qualche ombra sul 2020, soprattutto perché alcuni mercati hanno raggiunto delle valutazioni elevate, mi riferisco per esempio al mercato americano. Però per quello che riguarda il risparmiatore, tornando alla domanda, quello che noi vediamo nel risparmiatore è un senso di frustrazione. Cioè non è stato colto da parte di tutti i risparmiatori, un po' il ragionamento che facevamo prima con Mauro, cioè non è stato colto bene quello che è accaduto l'anno scorso. Dal punto di vista obbligazionario la fiducia sui titoli di Stato italiani ad aprile, quando era il momento giusto per entrare, era bassissima. Molti risparmiatori non sono entrati, qualche duna ha esitato ancora, molti sono entrati sulla coda di questo rally. E quindi sul mercato obbligazionario in parte è stata persa questo rally, questa opportunità che è stata grande, è stata storica, difficilmente ripetibile. Quei guadagni a doppia cifra sul mercato obbligazionario difficilmente li vedremo per parecchi anni. E il mercato obbligazionario è quello che raccoglie la quasi totalità dei risparmiatori. Ancor peggio per il mercato azionario, che vede il risparmiatore sempre in un atteggiamento prudente, la paura di perdere, la paura di assumersi dei rischi, sì. Dei rischi, questo continuo mordi e fuggi sulla battaglia avanti, sì e no, sulla battaglia commerciale tra USA e Cina, che ha lasciato tutti un po' stupiti. Quindi anche lì il risparmiatore non ha colto appieno il mercato, la performance dei mercati azionari. Quindi c'è un senso di frustrazione perché si vedono queste performance registrate nel 2019 e quindi c'è la voglia magari di corrergli dietro. Questo è un rischio molto grande, perché spesso il pubblico arriva sui mercati azionari quando la fine del rialzo è prossima e quindi spinge ulteriormente, ma non fa altro che gonfiare una bolla. Quindi io consiglio prudenza, di rispettare sempre il grado di rischio del singolo risparmiatore, ma soprattutto l'orizzonte temporale. È un approccio graduale, magari il piano graduale, di accumulo, esatto, consente un po' di ridurre di le frustrazioni e riprendere ad entrare, però con delle porzioni minime che quindi possano attutire eventualmente le paure. Invece non c'è nessuna paura nel partecipare, sì, al nostro domandone. Ah, eccolo, esatto, sento la sigla, eccolo che Mauro mi si trasforma in, non so, Gerry Scotti, Mike Buongiorno, Corrado, quello che preferisci. Allora, regaliamo ancora per oggi a chi per primo, telefonando a 800240024, ci darà la risposta esatta, regaliamo ancora per oggi una copia dell'imperdibile volume Risparmiare è facile se sai come fare. Chi l'ha scritto? Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ma che bravi! Allora, dovete rispondere a questa domanda. L'abbiamo detto, se siete stati attenti, l'abbiamo detto. Qual è stata la migliore borsa del 2019? Traffico. Promo 24. Appuntamento al GIC, giornate italiane del calcestruzzo, Italian Concrete Days, l'unica mostra italiana interamente dedicata a macchine, attrezzature, prodotti e tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la demolizione, il ripristino e la riqualificazione delle strutture in cemento armato, con le sue aree tematiche Agretexpo, dedicata al trattamento e al riciclaggio degli inerti, Compavitexpo, dedicata alle pavimentazioni e ai massetti, e Idrexpo, riservata al taglio e alla demolizione del calcestruzzo. Alla terza edizione del GIC è anche previsto un ricco programma di convegni con relatori di fama internazionale. A Piacenza Expo dal 29 al 31 ottobre 2020. Per maggiori informazioni, gic-expo.it. Due di denari. Non dovete rispondere con il WhatsApp, ma solo all'800240024. La domanda è la seguente: qual è stata la migliore borsa del 2019? E a chi lo dice per primo? Chi lo dice per primo vince un volume imperdibile scritto da noi medesimi, da Deborah, sì, Rosciani e Mauro Meazza. Risparmiare è facile se sai come fare. Un volume che peraltro ci dicono sta andando anche benino in libreria. Inspiegabilmente, però sembra che ci siano scritte delle cose interessanti ed intelligenti. Speriamo, non ci lodiamo e sbrodiamo da soli. E dire che non male. Ci siamo neanche tanto fatti aiutare. No, infatti. Allora, volevamo ritornare un po' su questo tema del 2020, anno di opportunità o rischi per gli operatori finanziari. Le opportunità ci sono sempre. Enrico Vaccari, rimango ancora con lei perché prima Paolo Proli ci ha regalato questa immagine della rotazione, e che potrebbe essere appunto un atteggiamento protagonista da parte degli operatori professionali degli investimenti appunto quest'anno. Guardando a questa ruota, voi come la muoverete? Verso quali paesi e verso quali settori? Ma sicuramente, partendo dal punto di vista del rischio azionario, i mercati che sono rimasti in questo momento come valutazione ancora attraenti è sicuramente l'Europa, che è considerato da tutti un mercato value per eccellenza. Così come alcuni mercati emergenti non hanno beneficiato del rally dell'anno scorso. Torno un attimo però su quello che potrebbe essere il tema che condiziona tutti gli investimenti, mi riferisco alle banche centrali. Allora, dal mio punto di vista i banchieri centrali non ci sono più, perché è cambiato il ruolo delle banche centrali. In che modo è cambiato? L'ultimo grande banchiere centrale, Mario Draghi, è andato tra virgolette in pensione qualche mese fa. Adesso a capo delle due più potenti banche centrali abbiamo due avvocati. Sia Jerome Powell è laureato in giurisprudenza e Christine Lagarde è laureato in giurisprudenza. Può sembrare un'ironia della sorte, ma potrebbe non essere un caso. Cioè, non c'è più bisogno dell'azione monetaria, perché questa può dirsi esaurita. C'è bisogno di un'attività di negoziazione con gli stati per ottenere riforme fiscali. Chi meglio di un avvocato lo può fare? Ed è per questo che il ruolo delle banche centrali sarà fondamentale, perché se le banche centrali non riusciranno a ottenere dagli stati quelle riforme fiscali, la politica monetaria ormai, come ha detto anche il governatore della banca centrale inglese Carney, ha esaurito le munizioni. Settori su cui investire? Ma sicuramente, tornando per il mercato azionario ai settori value, mi riferisco a tutti quei settori ciclici, quindi finanziari, tutti quei settori legati alla ripresa economica, in modo particolare i titoli finanziari che hanno subito, per effetto di questo lungo protrarsi di tassi di interesse molto bassi, delle ricadute sugli utili, per cui hanno delle valutazioni molto basse, rimangono da un punto di vista fondamentale attraente. E poi per il resto bisognerà cercare di capire se la recessione è definitivamente scongiurata oppure c'è qualche possibilità di qualche fermata inflattiva che costringa le banche centrali a alzare i tassi anche se non lo vogliono. Perché ci sono, è vero, allora probabilmente è vero che non abbiamo più queste paure recessive, specialmente nel mercato europeo, però ci sono dei segnali preoccupanti. Ad esempio, prima Prodi citava la conversione al green, al verde, è una conversione che sta impattando però con violenza sul settore dell'automotive, che per noi italiani poi è importantissimo, perché se il settore dell'automobile non va bene in Germania, non va bene neanche poi l'Italia, perché esporta e vende per la componentistica auto in Germania. Lì, qui si tratta di capire se il settore si risolleva alla svelta, è un affare, è un settore buono su cui puntare, sembrerebbe. Se invece non coglie in tempo il passaggio alla novità, allora diventa un settore in sofferenza. Ma il punto è centrale, perché il settore dell'automotive, che per l'Europa è fondamentale, per la Germania, ma per tutti gli effetti che l'economia tedesca ha sul resto dell'Europa. Basti pensare che una crescita del PIL tedesco dell'1% porta a una crescita diffusa dello 0,2% in tutta l'area europea, per cui se la Germania rallenta, il settore automotive rallenta, chiaramente gli effetti sono su tutta l'Europa. È chiaro che lì la conversione all'elettrico, alle nuove tecnologie, non è stata così rapida, alla fine non è stata neanche creduta dai grandi marchi automobilistici. Un po' di ritardo c'è, bisogna colmarlo in fretta, altrimenti il rischio è importante. Paolo Proli, dove sono le opportunità del 2020? Dove saranno? Ma diciamo, abbiamo parlato di rotazione, allora, visto che abbiamo parlato del nostro vecchio continente come un'opportunità per il 2020, direi che comunque continuare nella rotazione dei portafogli globali, a privilegiare magari il mercato emergente, non come un tutt'uno, ma magari selezionando i paesi migliori da questo punto di vista. Per quanto riguarda Mundi, la nostra idea per il 2020, guardando avanti anche nei prossimi anni, è proprio un po' quella traccia della la via della seta, no? I paesi della via della seta sono quelli che fondamentalmente possono essere più forti per quanto riguarda assecondare la crescita della crescita, ovviamente, della produzione, che anche la Cina sta diversificando e sta quindi cercando di esportare nei paesi satellite rispetto a se stessa. Quindi il mercato emergente, soprattutto sull'azionario, perché tecnicamente anche i cosiddetti price earning, quindi il prezzo nel mercato borsistico di queste aziende rispetto al loro potenziale di utile è più basso, e quindi tendenzialmente ci sembrano anche questo un fattore di valore che possiamo inserire nel portafoglio, soprattutto dopo tanti anni di crescita dei mercati finanziari. L'atteggiamento prudente del buon padre di famiglia in un portafoglio azionario, secondo me, è da privilegiare per il 2020. Dobbiamo cercare di ridurre il rischio del portafoglio complessivo, probabilmente prendere beneficio da quelle asset class che hanno già corso tanto, dicevamo prima, il mercato obbligazionario, soprattutto core governativo, ha dato talmente tanta performance che oggi è più un rischio sulla sua scadenza. Quindi se il mercato effettivamente dovesse reagire ad uno scenario inflazionistico, che oggi non c'è, ma dovesse arrivare durante l'anno, e la curva di rendimenti si rialzasse anche di 40-50 basis point, le duration dei titoli a lungo termine governativi di 10-15 anni potrebbero portare delle minusvalenze troppo importanti e significative per quel cliente che non è abituato a perdere nel breve termine 5-6 punti percentuali di performance con il mercato obbligazionario. Ma attenzione, perché i rischi sono molto modificati rispetto al passato. Oggi il percepito che ha la clientela finale purtroppo è che il rischio è solo sul mercato azionario. Non è vero, il rischio è sul mercato azionario, il rischio è sul mercato delle valute, per cui anche le valute si possono spostare tra di loro in maniera abbastanza significativa, ma soprattutto secondo me oggi il rischio è sul mercato obbligazionario, perché noi abbiamo posizionato il patrimonio della clientela sul mercato obbligazionario, quindi il maggior rischio è lì, e su quella parte del portafoglio io andrei a lavorare soprattutto nel 2020 come un risk manager, cioè come qualcuno che va a cercare di togliere i rischi soprattutto che non hanno più rendimento, cioè quelle obbligazioni che non hanno dietro un tasso, forse hanno già dato tutto quello che dovevano dare, non si può rimanere investiti in qualcosa che non ha quel cuscino di salvataggio nel momento in cui appunto ci fosse un cambio di tendenza sui rendimenti obbligazionari. Quindi la rotazione non deve essere solo azionaria, probabilmente anche nel credito. Noi quello che stiamo cercando di fare, di consigliare anche alla clientela, è di approcciare quella cosiddetta parte di credit spread, cioè quel basis point che già l'anno scorso hanno dato tanto, perché il mercato degli high yield globale è passato da 500 basis point di spread a 300, vuol dire che ha chiuso moltissimo e ha già dato molto, cioè, stiamo parlando di azioni che hanno ad alto rischio, di obbligazioni che hanno ad alto rischio, quindi pagano molto, esattamente, e pagano, promettono un rendimento molto elevato, molto di più di quello che danno i titoli di Stato, però chiaramente se ti prometto molto, come sempre con regola generale, il rischio è più alto. Però pensare che da 500 basis point che determinano un po' il rischio, no, si sia scesi a 300, vuol dire che c'è un ipercomprato, vuol dire che tutti stiamo andando a comprare, certo, questa asset class per cercare rendimenti, no? L'alternativa rispetto al tasso zero è di diversificare il portafoglio, di comprare questi rischi collegandosi alle loro opportunità. Se le opportunità scendono troppo in termini di rendimento atteso, è ora di cambiare cavallo. Ecco, nel 2020 noi ci aspettiamo proprio questo in termini di rotazione: modificare l'atteggiamento, probabilmente i finanziari e i subordinati, invece di scendere sul rating delle emissioni obbligazionarie, potrebbero essere una soluzione proprio per chi sta pianificando il portafoglio obbligazionario. E nell'equity, come dicevo, mercato emergente, via della seta ed Europa più che altri paesi. Ottimo, ottimo. Sentiamo se possiamo dare lo stesso giudizio alle risposte dei nostri ascoltatori al domandone di oggi che Mauro ci ribadisce. Allora, vogliamo sapere quale è stata la migliore borsa del 2019. Allora, Gaetano da Bologna vuole il nostro libro? Gaetano, sì, qual è la risposta? La risposta è la borsa di Milano. Mi dispiace, non è quella. Marco da Como. Allora, buongiorno, credo sia il Nasdaq di Wall Street. Mannaggia, ma stamattina non avete studiato. Emilio dalla provincia di Latina. Atene. Bravo. Ah, bravo Emilio. Avevamo già detto. Allora, per Marco e Gaetano invece il libro Risparmiare è facile, sai come fare, è in libreria, lo dico così, non perché abbia un interesse, ma insomma no, l'abbiamo scritto Deborah ed io, e quindi... E allora, Atene che ha fatto più 50%, ma attenzione perché i mercati quando devono salire prendono le scale, ma quando devono scendere prendono l'ascensore. Con questa massima che ci ha regalato stamattina Enrico Vaccari, che ringraziamo, ci salutiamo, grazie anche a Paolo Proli per essere stato con noi. Io tornerei anche domattina, se tu sei d'accordo. Dobbiamo, perché dobbiamo parlare appunto delle questioni fiscali e non solo fiscali, degli ex. Che bella, che bel presupposto.